dell'8 e 9 maggio moriva Peppino Impastato. Stasera la sua voce aprirà la nostra trasmissione. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, vedrai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo. Ora splende su di noi, su di noi. Eh sì, sì, pregheranno, pregheranno per noi, lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre. E sono di casa in sacristia, catamano, si pregherà per noi di in Santa Caterina da Siena, in Mafiopoli pregherà per noi, le lezioni vadano bene nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC. Loro pregano sempre, preghiamo tutti insieme, preghiamo, eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancti, sicut in cielo e in terra, amen. Eh sì, e quante monache, quante monache, quante monache, un fottio di monache, sono tutti, tutti con noi, tutti con noi. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi ci sono gli amici. Gli amici che pregano pure loro, gli amici degli amici che pregano, Pater Noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, sicut in cielo et in terra, Pater Noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, fiat in cielo, sicut in cielo et in terra, da nobis Pater Noster, e pregano tutti. Eh sì, eh sì. insieme l'alba. Sì, pregano, loro pregano sempre, pregano sempre, pregano sempre, pregano, pregano, pregano, pregano. Affinché... E poi ci sono gli amici, dicevo, pregano anche loro per la vittoria della DC, pregano anche loro. Don Tano che è un uomo di grande fede, di fede immensa, un uomo che crede fino in fondo nella divinità, che crede fino in fondo nei santi, che crede fino in fondo nella pace divina, nella pace eterna. Don Tano che ha dato 2 milioni per festeggiare la santa del furo, 2 milioni, la festa l'ha pagata tutta lui. Don Tano che non è mai, non diventa mai un malo cristiano, è sempre stato un santo cristiano, Don Tano che prega. Perché il suo amor è un miracolo, quindi qui da me lei verrà, perché solo a me amerà. Questa era Onda Pazza, la trasmissione di Peppino Impastato in onda su Radio Out 36 anni fa. Perché Peppino moriva 34 anni fa, nel 1978. Perché immagino l'abbia fatta precedentemente alla sua. Prega per Moro, probabilmente già hanno capito Moro. Prima. Infatti sì, se non hai ascoltato la registrazione, fai le selezioni. Tu fai selezioni. L'ho ascoltata 6 volte, anche perché l'ho dovuta rimettere a posto. Vuole fare il bello, facendo cioè, fatto una brutta. Questa cosa non la puoi fare assolutamente. Ho fatto ascoltare una cosa di Peppino in passato senza sentirla. Perché l'ho visto un po' troppo decentrato. Lo so, però adesso ci parliamo sopra. Vabbè, andatevene a fanculo, io me ne vado allora, ok? Va benissimo. Comunque, rimanendo... Cioè, non vi si sta riproponendo il kebab tantissimo. Infatti, tra poco rutterò. Se rimanere... sporchissimi di kebab, io mi sono... Un po' alto questo tappeto. No, bastante piano da loro. Ok, quindi, da loro. Voi lo sentite piano? Gentaglia. Mandiamo una... Noi ci stiamo divertendo un sondaggio. Lo sentite piano? Per rimanere sul tema... Introduciamo questa Sicilia barra mafia. Facciamo, cioè, raga, una trasmissione. Siamo già entrati, una trasmissione radiofonica si fa. Si inizia, si danno le coordinate, si spiega dove stiamo trasmettendo, perché stiamo trasmettendo, e poi cominciamo con la trasmissione. Cioè, normalmente funziona così. Se vogliamo dirla a fine puntata è molto poco professionale. Vabbè, allora fai tu. Allora, noi siamo Francis Caner, Grubi, Vani Anzala. Ha nomi che comunque rendono l'idea dei personaggi. Si è diventati nordici. Sì, molto nordici. E questa è la quarta puntata di Tre menti sopra il clero in onda su transizionedifase.org. Ascoltateci. Segui sempre, per favore. Se ci ascoltate, ascoltateci. Se ci ascoltate, se ci sentite, sentiteci. Se ci vedete, c'è qualcosa che non va o siete dentro questa stanza. Anche questa trasmissione. Entrate in chat con noi. Entrate in chat, con noi. Sì, già ci stanno. Come già ci stanno. Come ma anche contattateci su Twitter. No. Funziona che bisogna essere fortunati. Entrate su transizionifase.org. Dopodiché cliccate ovviamente su chat. Ovviamente non bloccate i contenuti che vi per imboccare in chat. Vi dovranno bloccare i contenuti. Voi dite no, non bloccare i contenuti. Entrerete meravigliosamente in chat con noi, con un nome fittizio, detto anche nickname, per parlare con noi ed interagire con noi. Vabbè, se mo' adesso ci mettiamo a spiegare pure cosa sono i nickname nel 2012, ah, di giocare con qualcosa che rischia di cavarmi l'occhio. C'era gente che giocava a pallone per le strade. Detto questo, per esempio io malissimo avanti. Ma giocava a pallone per le strade. Notiziona dell'ultima ora, Provenzano ha cercato di suicidarsi in carcere. Purtroppo non è morto, però. Purtroppo non è vero, perché è una notizia su Twitter. No, è vero. Ah, è vero. Ha tentato il suicidio, purtroppo non è morto. Cercare le fonti. Ah, e mo durante la trasmissione cercheremo di capire sì, perché, il come figlio mai. Di Provenzano è ospite al servizio pubblico in questo momento. Probabilmente per quello, quindi cercava di porre fine alla sua esistenza. Comunque non ci sono più quei bravi boss di una volta. Non c'è neanche più. Cioè, no, se si ammazzano, si ammazzano. ammazzavano. Cioè, questo pure io però, vista la notizia su Twitter, avrei provato ad approfondirla e a capirla. Cioè, approfondisci le 5 tappe. Questa lo sai che però è una cosa importante. Anche i capi mafiosi si suicidano. Quindi. Ma è la crisi, è che la sua azienda stava un po' fallendo. Equitalia lo stava divorando. Quindi. Ma non ci credo manco se lo leggi su Twitter. Vabbè, su Twitter neanche se lo leggo. Vediamo un po'. Comunque, io intanto volevo sottolineare il fatto che dalla terza trasmissione, in cui ci siamo resi conto che potevamo tranquillamente preparare e dire una marea di cazzate 10 minuti prima, preparandole 10 minuti prima della trasmissione, anche questa trasmissione non è stata assolutamente preparata. Se e non quindi, in linea generale. Se non nella camicia di Gianni, che questa volta è lui a portare una camicia simpatica. Una dubbia camicia, ma comunque, cioè, ricordiamo, insomma, io ho delle camicie anche bellissime, anche, ma non queste. Non le uso mai, non queste. Ma questa è una signora camicia, comunque. Se ma per... che è la di Senna, perché? Sì, è fatta apposta, perché l'ho fatto un lavaggio sbagliato, quindi. Ovviamente questo è molto simpatico per voi che non ci vedete sempre la stessa storia. Però ci potete sentire 1979. Ma davvero 1979? Noi siamo moderni con la sì, musica. Sì, sì. Molto. Comunque questi pezzi di merda, guarda, le guardie penitenziarie. dai. Torniamo in voce. Ma solo io torno in voce. Torniamo tutti in voce. Io sono fuori. Tra l'altro stasera mi rode il culo a me. Mettiamola così, quindi non sarò simpatico. Opla. E partono i Dropkick Murphys. Incredibile. Sono molto molto in sottofondo. Sì, sì. Sì? Assolutamente. Non ce la roviniamo così, perché è una bella canzone che vorrei passare dopo. Siamo riusciti a scoprire qualcosa in più su... Sì, Provenzano ha cercato di suicidarsi. Ma poi è Provenzano, magari con tutti questi omonimi. Quel grandissimo pezzo di merda maledetto che magari muore. Ricordiamo, chi è Provenzano? Bernardo Provenzano, ha detto Binno Trattori, boss indiscusso di Cosa Nostra, che è tra l'altro il responsabile della morte del compagno Peppino Impastato. Del compianto. Uno dei mandatari. No, ai tempi non contava un cazzo Provenzano, però comunque voglio dire appartiene a quella schiera di persone che andrebbero prima castrate chimicamente e poi uccise nel dubbio. Cioè, per essere proprio sicuri. Per essere anche un po' soft. Sì, perché io notoriamente sono una persona soft. Comunque sto coglione ha cercato di ammazzarsi infilando la testa in un sacchetto di plastica. Però non ce l'ha fatta perché le guardie carcerarie sempre lì già al dovere, che di solito magari ti ammazzano di bastonata, nel caso di Provenzano gli hanno salvato la vita. Per dire, giustamente, no? Che quando devono fare ammazzi, il loro mestiere, Provenzano devi salvare, certo. Fai, se no. E beh, comunque, quindi se la sta a passare male in carcere Provenzano. Ma magari muore, infatti io gli manderei un sacco di lettere, no, di lettere in cui tieni duro, perché lui deve marcire lì dentro. A proposito di lettere in carcere, hai visto l'iniziativa comandata sulla censura del Notav in carcerato? Ma raccontacelo, sì, io ho visto, ma tu sei più bravo. È andata molto bene, sì. A quanto pare, vabbè, insomma, i fatti sono stati, non è una frase corretta. E... anche sì, dipende da come lo volevi articolare. Poi vabbè, sì, diciamo che era la parte. Diciamo che tu e Sandrone con l'italiano avete delle. Sì, infatti potrei notevoli... anche far venire lei a trasmettere piuttosto che sì, io. Infatti, anche come tecnico, secondo me lei sarebbe molto più sciolta, sicuramente. Vogliamo continuare a parlare a grumiti oppure siamo un idioma comune? Tu devi un po' più urlare, ma non è possibile. Una volta che ti ho messo lontano. Adesso sono lontano e parlo pianissimo. E ve la fate anche nel culo. Esatto. Comunque, ma cioè, pensiamo di trattare qualche argomento stasera oppure una chiacchierata pranzo? Intanto fammi finire di spiegare sì, questa intanto cosa. Vabbè, finiscila questa. La situazione sulla censura posta sulla posta. No, veramente. Ma ragazzi, io questa cosa me la potevo immaginare una anche canzone. Mentalmente. Manderei immediatamente una canzone. Io stasera probabilmente comincerò a fare solamente ripetizioni di parole a che hanno doppi sensi. Comunque dai, ti prego, intervieni te, perché sennò io non è che posso io abbia... continuare così all'infinito. Se ti ha detto non parlare duro, probabilmente perché non puoi parlare cazzo, meglio la tua scarsa conoscenza evidente dell'italiano. Che sagacia questo. Prego, no, faccia lei, facci. Quindi qua ci diamo una mano. Aspetta, torniamo indietro di 5 minuti. Hai visto com'è andata la cosa sulle lettere? No, a posto. Vai avanti, grazie. Prossimo argomento? Anche tu l'hai capita perfetto. La cosa sulle lettere, poi. Sì, no, ho capito di cosa parlare. Direi che usciamo da questo momento di impasse. Comunque, è stata messa sulla posta in entrata e in uscita al carcere. Censurata, censura totale sulla posta in entrata e in uscita del compagno Notav arrestato. E quindi caccia di Parma, fosse. Lo stesso di Provenzano, peraltro. Non so se è di Parma, se l'hanno spostato alle Vallette. L'hanno trasferito poi alle Vallette. Vabbè, sono più no, comunque. Andare alle Vallette. Comunque, fatto sta che subito è partita l'iniziativa che è stata spammata ovunque su internet, in cui si invitava a mandare una lettera ogni qualvolta ce ne fosse l'occasione. Infatti è stata riempita, inondata la casella postale e l'ufficio... relazioni con il pubblico, credo, una cosa del genere, e quindi ovviamente l'ufficio controllo posta cioè, che è stato riempito, inondato negli ultimi tre giorni, gli hanno tolto la censura. Hai visto? Quindi è una cosa positiva. Poi ricordiamolo, comunque la corrispondenza in entrata e in uscita è sempre controllata, non passa mai inosservata. Ovviamente per certe persone è un po' più controllata. Comunque è sempre controllata. Anche perché poi questo Notav che si chiama Giorgio fa particolarmente paura all'interno del carcere, perché pare stesse cercando di riunire, cioè stesse anche facendo sì è riuscito ha creato un'assemblea, stava facendo degli appelli anche in favore dei lavoratori vessati dalla riforma del lavoro della Fornero, insomma una serie dove di metti si ribellano, esatto, e quindi iniziano anche a far paura. Se non abbiamo altre cose da dire possiamo continuare con la musica. Io metterei quella che ti ho detto, va. Ok, esatto. che sei da troppo in piedi, dietro un banco che non sa, vieni preparata per l'università. Quell'idiota che ti guarda ha capito troppo già, quel che può. Questo era un bellissimo pezzo, orribile secondo me, però. Vabbè, tu non capisci un cazzo comunque, no, mettiamola, ragazzi, mettiamola. I cazzi morti fanno abbastanza schifo. Sono d'accordo, ma questo pezzo comunque merita. Poi aveva un senso, cioè questo... comunque cerchiamo di... Questa unione di intenti musicali è molto bella. Il disannunciare il pezzo dicendo che merda la tua scelta, è proprio... No, non è che cosa... merda la sua scelta, io non è... No, no, ma anche la non mia, dire, la tua. Tu applaudi la pressione perché avevo gusti troppo diversi, però va bene. Tipo all'inizio, no, però perché no, però per esempio i Smashing Pumpkins piacciono anche a me, quindi non è neanche vera questa cosa. Ma probabilmente agli ascoltatori non interessa sapere dei nostri ascoltatori, che diventano musicali sempre di meno, visto che sempre hanno di altro meno da fare, hanno altro da fare. Ringraziamo i nostri due ascoltatori, due ascoltatori, sono due, perché è un po' sì? Tempo di web. Di che? Di cosa? What's once weather's weird. Weird, ah, è tempo di weird, ma strano comunque, no, non se ne è parlato, no, per non niente, non so weird, niente. Vabbè, ne parleremo dopo, sì cos'è? Allora, detto questo, salutiamo le nostre due ascoltatrici che andranno a una festa invece che sentire noi. Le auguriamo peraltro un'ottima serata. Un'ottima serata, grandissima. Che si divertiranno sicuramente. Divertitevi tantissimo. Un mondo, senza la nostra voce nelle orecchie. Divertitevi tantissimo. Senza sentirci. Cosa infami è successo quest'ultima settimana? Quest'ultima settimana c'è stato un nazista che è entrato in Parlamento in Grecia. Uno solo? E ha detto. Ha fatto il suo grande debutto dicendo veni, vidi, Wiki. Wikipedia, probabilmente. Wikipedia, sti imbecille. Sì, perché ci sono state le elezioni in grandi stati europei come Francia, Grecia e Comacchio. No, europei. Ci sono state le comunali in Italia, in Polonia. Sviluta come se fosse Antani. Dai, cosa ci sono? Le elezioni in Grecia, le elezioni in Grecia, in Francia. Partiamo europeisti, dai, partiamo rubisti manco per il cazzo. Comunque, vabbè, se vogliamo fare un'analisi, diciamo che in Francia ha trionfato il socialista Hollande con uno scarto del 3%. Peraltro hanno subito diffuso un fuori onda di Sarkozy, in cui Sarkozy no, diceva sono felice di lasciarlo in questo mare di merda. Che è simpatico. Per dire, quando uno, beh, Sarkozy comunque tende ad essere una persona simpatica. Moltissimo, e... soprattutto molto molti, alta. Tra l'altro molti dicono che sia gran parte della colpa del fallimento di Carla Bruni. Di Carla Bruni, è clamoroso perché... una first lady che affossa quindi questi leader della destra europea vengono affondati in qualche modo sempre dalle donne, dalla fregna, non è dalle donne, fai la sinetta, ma non so, si vocifera che comunque i francesi abbiano molto non abbiano apprezzato, ecco, la presenza di Carla Bruni all'Eliseo, non fosse una persona apprezzata, e si dice che comunque abbia molto influenzato le politiche di Sarkozy, non so in che modo, però abbia molto irrigidito le politiche, perché si addice alla Repubblica.it francese, magari, che ne so, Repubblica.it credo si chiami Repubblica.it. E quindi, vabbè, a parte questa piccola nota di colore, insomma, Sarkozy ha perso, quindi è passato al socialista Hollande, che, se non sbaglio, la prima cosa che ha fatto, cosa che succede, è stato imbruttire alla Merkel. No, è stato tagliare tantissimo gli stipendi, compreso il suo, i super stipendi dell'Eliseo, che pensioni. È una cosa che succede anche in Italia, credo. Come no? Ma voglia, li hanno tagliati. Appena a mio padre l'hanno tagliato. La prima cosa che fanno con il Parlamento, si dimezza lo stipendio così per gioia. E quindi questo è quello che è successo in Francia. Molto molto più interessante, perché meno legato al dualismo, diciamo, è la situazione in Grecia. Che se da una parte in Grecia può essere un po' una situazione anche inquietante. Sì, perché il partito di centrodestra che ha vinto le elezioni con il maggior numero di voti nella democrazia si è rifiutato di creare il governo, ha rinunciato all'incarico. Cioè uno che rinuncia all'incarico, per quale motivo? Perché non è in grado, probabilmente. Il secondo partito, che era una coalizione di partiti di, diciamo, sinistra, è un po' come le nostre Rifondazioni, sì, se vogliamo, un po' più a sinistra, non centrosinistra, ecco. No, sicuramente non centrosinistra, per quanto per me sta parola non vuol dire un cazzo. Ma stai a parlare di Holland? No, stavo ruttando. Ah, però okay. Vabbè, il modo con cui tu segui la trasmissione. No, perché volevo dire che la prima dichiarazione che ha fatto è stata a favore della TAV. Sì, sì, vabbè, però abbiamo finito di parlare di Hollande. Scusate. Allora, questa è salute e felicità di domenica scorsa. Cioè, non ho capito come funziona. Ognuno parla del cazzo che vuole. Siamo a posto. Eh sì, facciamo un po' come cazzo ci pare. Sì, di che stiamo parlando? Delle elezioni in Grecia. In Grecia. Il secondo partito ha rinunciato anche lui all'incarico, quindi adesso si riandrà al voto. Quindi i comunisti stanno al governo in Grecia? No, perché si sono pure i neonazisti. Ci sono i nazi. Pensate che divertimento la seduta di parlamentari in Grecia, che sarà affiondati, accinghiate da una parte con le molotov dall'altra, una cosa molto simpatica. E tra l'altro, come diceva, qualcuno che sostiene che Gabbo sia fatto di acidi, io confermo. Sì, in toto. Sì, ma perché lì si cerne in realtà. Vabbè, invece di sudare si cerne. Cioè, basta leccarlo e ti fai un trip. È come le rane toro, veramente fa questo effetto. E quindi appunto i neonazisti, cioè neanche lì ci sai vagamente, che non sono quelli dell'Illinois, sono proprio neonazisti. E, diciamo, il loro rappresentante è entrato in sala stampa e dicendo alzatevi fortissimo. Tutti ha ruttato, si è grattato il culo, poi ha preteso che tutti si alzassero in piedi. Tra l'altro circondò da quattro camerata di una circondò da una uno che era infatti uno era grosso visto proprio. La foto pareva il set del film. Sì, cioè. Sì, poi vedi questo uno sembrava Vin Diesel, tipo, era sì. Veramente quattro. Quindi questo nanno erotto che poteva sembrare uno storace qualsiasi. Sì, con sì, questi sì. Quattro storace fa un cude molto più con questi quattro camerata 4x4 dentro degli armati, quattro stagioni che lo circondavano e cercavano di intimare In quella lingua meravigliosa, sì, che è il greco, di intimare i giornalisti di fare quello che diceva il loro rappresentante, che era quello chi di non vuole esce. Chi non vuole ascoltare esce, alzatevi in piedi, perché lo consideriamo un gesto di rispetto, come alle elementari, capito? Sì, alzatevi tutti con la bacchetta. Le suore, perché tu andavi alle elementari delle suore? Ebbene sì. Pensa tu, no, che sto scherzando. Si spiegano tantissime cose. No, sto scherzando. Che infanzia di merda. Comunque, intanto ricordiamo sarebbe che molto per chi si sta deve uscire, si deve allontanare dalla postazione. Buon divertimento. Che ci possono ascoltare in FM sugli 78.6. Ma da quando? E con le cuffiette. Ma da ieri. Ah sì? Sì. La paura. Su credo siano le frequenze dei Vigili del Fuoco. Siamo usciti. Ah, in AM però. No. FM. Ah, FM. Sono sotto gli 87, ci stanno quelli della polizia. E siamo riusciti ad entrare dentro. Sì, sì, siamo riusciti ad entrare dentro la questura. Ci hanno anche chiuso dentro. Ma dai, è vero, sta cosa ti sei inventato una stronzata. Ah, ok, no, per capire. No, perché Gabriele è un umorismo molto sottile. Diciamo che non si capisce più. Quando non è macabro, non si capisce. Sì, cerca di sottolineare con una scureggia alla fine di ogni battuta. Anche con un era una battuta. Ridete. Potremmo fare il jingle delle battute. Wow. Solo delle tue, wow. Perché sono le tue quelle che non si capiscono. Anche no, comunque. Quindi vabbè, il Parlamento greco sarà molto colorito da oggi in poi. Ma se qualora riusciranno a... Riuscissero comunque, vabbè. No, qualora riusciranno. Vabbè, anche tu assieme a Sandrona ti farai un bel corso. Secondo me si prendila bene. Secondo che è la frase tipica. Lo sai che la mia professoressa un tempo disse a me era d'italiano ovviamente. No, e disse comunque nel parlato si può dire, nello scritto no. Vabbè. Questa tua professoressa è stata licenziata a meno che, in bronco il a giorno meno che dopo. L'ho scritto, no, tutto attaccato. Su tutti e tre gli anni. A me mi. Sto scritto tutto attaccato male. Sì. O come okay. Niente scritto con la G. Ecco, qualora riuscissero. Hai ragione. Qualora riuscissero. Ora mi è venuto in mente. Perfetto. Qualora riuscissero a costruire. Che vorrei ben dire, insomma. C'è il calabrese che insegna l'italiano a due romani, vorrei dire, Vabbè, non è che mi stai insegnando il romano, cioè. No, però voi siete la capitale, capito? La capitale d'Italia. No, noi siamo una cosa a parte. Cioè, però la capitale della lingua è la Firenze. Quindi insomma noi stiamo... Vabbè, state svicolando. No, a me stanno simpaticissimi. Le fiorentine in particolare comunque. Ma parlo delle fette di carne, chiaramente. Sì, ovviamente. Vabbè, insomma, siamo veramente perdendo. Siamo vagheggiando, cioè, bene, tutto questo era per siamo amanti del volo sta pindarico. Sta un po' più incasinata di prima, probabilmente. O forse sta meglio, però... Comunque pare che uscirà dall'euro. Ci sono questi rumors. Magari beati loro. Beh, sì. Ma chi, la Grecia? Pare sì che ci siano questi rumors, a meno che non riesca anche in Grecia. A meno che non riesca anche in Grecia la manovra che è stata fatta in Italia, cioè che la Merkel piazza il suo soldatino. Ma già l'ha fatto. Però poi hanno fatto le elezioni, quindi ora ha piazzato sto cazzo. E non riescono a formare un governo. Adesso si scopre che in realtà quello di Alba Dorata è il soldatino della Merkel. L'amico della Merkel. In realtà parla tedesco. Poi, sì. Ecco, e questo spiegherebbe Veniti di Vicky, probabilmente. Esatto. Che è tedesco. Va bene, senti, passiamo una canzone perché stiamo straparlando. E ruttiamo il kebab con una canzone di sottofondo. Adesso ci sentiamo. Bulls on Parade, per favore. Che è l'ultimo. Perché abbiamo Marco Masini su Twitter, noi. Perché l'avrà ritwittato qualcuno, infatti. Perché noi siamo in cerca di cazzate. Qua ci abbiamo. Aspetta. Ma avevamo parlato. E termini merese. No, ma proprio le elezioni in Italia. I grillini, regà. Ah, dai. Le reazioni della politica. Dai, parlane tu. Ma perché solo io? Non è che no, sono... introduci tu, io non so come iniziare, ti dico la verità. La mia. Si sente la voce. Ora? Com'è possibile? Tutta? Ah, quindi siamo. Adesso il microfono. We're in a pocket full of shell. We're not around no family. We're in a pocket full of shell. A questo punto potremmo continuare a rimanere. Possiamo continuare a rimanere col sottofondo musicale e continuare a parlare. E certo, si sentiva. Cioè, in tutto questo non si sente neanche... ancora. Cioè, non si sì, l'ho rimesso. Sì. L'ha rimessa apposta. Sì, volontariamente. Ok, allora. Sai, come per fare i paghi. Lo volevamo fare apposta. Così va. Comunque sei un tecnico fortissimo, non sì, sì, click riesci a fare. Mi sbaglio nei click. We're in a pocket full of shells. Eccoci ritornati in voce. Tutto questo entusiasmo, sì, tra sì, l'altro. Che culo che siamo ritornati in voce, eh? Siete felici, dite la verità. Obama ha appoggiato le unioni gay. Ve lo dico così, in maniera estemporanea. Se servivano un qualche milionata di voti. Sì. E infatti ha fatto un milione in 90 minuti. Un milione di dollari. Però, di ha raccolto un milione di dollari, vabbè, ragazzi. Insomma, che in America le... Ma non so suoi, però. Sì, per la campagna elettorale. Credo, ma anche sì. È stata qualche corporation di frogi. È importante che ci sia comunque. Cioè, in America sono importanti prima delle elezioni il fatto di avere del denaro a disposizione, perché è anche uno specchio di chi ti voterà, diciamo. Quindi comunque è un dato importante. Ma le sei tutte, gran cazzi, tra l'altro, comunque. No, ne sei veramente tanto. Ma continuiamo per le elezioni in Italia. Com'è andata? Ce lo spiega il nostro inviato Luca. Sono andate bene. Cioè, dava uno, cioè, senso... Scusa, ha sputato sullo schermo. Gente, è bel tuo. È entrata nelle urne, ha espresso preferenze. È entrata proprio dentro le urne, attraverso la fessura. Perché sì, sì, per sì, italiani, sì, popolo di invertebrati. Solamente entri dentro le scuole, dai il documento. Loro dicono: ah sì, beh, effettivamente abiti qua. Ah, sei tu. Sì, è il tuo seggio. È il tuo seggio, vai là su questa scheda, esprimi la tua preferenza. Moccia sindaco in questa elezione. Moccia sindaco, tra la la la la, io aggiungerei, perché è proprio il massimo. Però io ho detto, bisogna ringraziare quei 300 che l'hanno votato, perché l'89,7%, quindi sono quasi 300, tre seggi sopra il cielo. Perché pensate se Moccia, per questi quanti anni dura una carica di sindaco? 5 anni. Pensate se Moccia per 5 anni si dedicherà solo ed esclusivamente a fare il sindaco, sì, e non scriverà. Ma perché se tu Sgarbi, che faceva il sindaco a Cefalù, no, l'hai visto a Salemi. Salemi, e mo si è candidato a Cefalù queste ultime. Ah, perché è andata talmente bene. Gli piace la Sicilia, proprio. Che ormai purtroppo Sgarbi non è sparito. Quindi mi sa che già che lo scriva, Moccia, a me non te può. Magari c'ha 7-8 romanzi nel cassetto pronti a essere. Già pronti? Io sindaco, scusami ma ti voto. Scusami, ma sono sindaco. Scusami, ma metto una. Che ci avrebbe anche senso. Sì, molto senso. Scusa, ma. Ma comunque, rifaccio la giunta. Ricordiamo che erano 900.000 comuni chiamati al voto, quindi era. E non ha risposto quasi nessuno, perché diciamo la verità, di fatto c'è stato un. È l'antipolitica che avanza. L'antipolitica l'ha fatta da padrona, l'hanno detto tutti. Cioè, io questi giorni sono terrorizzato perché. L'altro giorno ma l'antipolitica nel senso PDL, PD. No, l'altro giorno ma cito. Allora, vi racconto questa cosa personale. Ti ha citofonato l'antipolitica. Mi ha citofonato l'antipolitica e mi ha detto: sto arrivando. E sto arrivando. Occhio che mo passo pure. Tempo qua. Caso. Occhio che mo passo pure qua. Ma c'aveva una parrucca fucsia, eh? No. Non è truccata in maniera no, esagerata. Cioè, nel senso, io ho chiesto: ma chi sei? Sono l'antipolitica. Hai fatto sempre Beppe Grillo? No, sono uno. Però non si è capito bene, secondo me era l'amministratore di condominio. Sì, che stava. Perché sta cercando di battere. Beppe Grillo, che peraltro ha sfondato. Se beh, vogliamo allora, Beppe Grillo non di suo. Innanzitutto. Allora, spieghiamo bene: il Movimento 5 Stelle è un movimento fondato su sul lavoro. Di cittadini. No, di cittadini che votano altri cittadini. Che questa è una cosa che loro ci tengono a che dovrebbe essere la norma. Sì, comunque, la norma, dovrebbe essere la norma nella democrazia. Ma siamo in democrazia? No. Beh, preferirei di no. E qui no, diciamo il dato importante innanzitutto, e qualche dubbio viene anche dai, innanzitutto, dai grillini. Il dato importante in realtà queste elezioni le hanno vinte i grillini. L'ha vinta Napolitano, l'ha vinta l'antipolitica. Però in realtà chi ha vinto veramente le elezioni, senza scherzare, è il partito degli astenuti. La vincitrice morale è la Roma, cioè. No, è il partito degli astenuti, perché c'è stato dati di astenuti. Questa è una di quelle cose che si dice ogni anno, sì, cioè, no, dai, è il partito degli astenuti, dai, è come quando si dice, cioè, c'è bisogno di sinistra, no? Quindi, per carità, è aumentato. Allora, scusate, c'è bisogno di sinistra, allora, oppure quando tipo il 23 aprile si dice ogni anno, mai come quest'anno è importante ribadire il senso del 25 aprile. Cioè proprio sono di quelle ovvietà che allora, veramente stuccano. Scusa, fino ha vinto lo sport. Lo sport è il bello di comunque di stare insieme. Viva il terzo tempo! Viva, viva il terzo tempo! Viva, viva l'olio d'oliva. Bello, no, però bello. Stiamo diventando, no, perché mi piace come stiamo iniziando a interagire tra di noi, sì, cioè, accoltellati. I nostri meccanismi sono proprio ben oliati e andiamo da soli. C'è della radiofonia e noi ribadisco col tirapugni, veniamo direttamente. Sì, la prossima volta credo che sarebbe bello avere una lavagna su cui cancellare gli argomenti che scrivono gli altri. Oppure metterci le unghie mentre tu parli. Bello. No, quelle bianche che non fanno casino. No, vabbè, no, poi no, io no. Ricordo che c'è sempre servizio pubblico e Piazza Pulita, se vuoi dire qualcosa di più simpatico. Io spero per loro che stiano sentendo noi. Io spero che stiano facendo una partita a scacchi. Pare che sul Piazza Pulita stiano per fare un mandare un servizio che riguarda i nazi in Grecia, per dire, no? Ok. Quanto la scelta quanto approfondiscono sì, moltissimo sono bravi, proprio sempre, vabbè, bravi, sempre sul pezzo. Ragazzi, io dico, cioè, io personalmente vi consiglio di guardare o servizio pubblico o Piazza Pulita, perché sentirci perché, perché noi lo stiamo facendo pena. Parliamo, ma abbiamo pensa, io ho il poster di Santoro in camera tranquillamente proprio. Ma io comunque una critica alla scelta degli ospiti tutte le volte la farei, vabbè. Nel senso, no, perché scegli. A me, a meno io, che non mi invitano Chomsky. Mi ma nel senso, come sceglie tipo Sabrina Ferilli e Rosy Bean. Cioè, nel senso. Mo, Tremonti è così. Anche vorresti dire che Rosy Bean non è sexy? Cioè, con quale no, faccia? No, no, vedi che hai subito colto. Sei maliziosa. Sei antifemminista. Sei proprio maliziosa, sei, no? Addirittura antifemminista. Questa è forte. Antifemminista e sessista, semmai è Sabrina Ferilla. Ah, solo perché è bella e sessista. Non mi vuoi mettere al muro? Ti devi mettere a disagio. Che stai facendo? No, le devo un'occhiata alla chat. Chi è Francesco? Vabbè, senza vabbè, neanche no, per dire. Ciao Francesco. Sì, sì, un saluto. È bello che per una volta c'è una persona nuova. Non insultiamo una volta che c'è una persona. No, non l'ho insultato. Sono felicissimo di avere Francesco con noi. Ma che mi stupisce. Ti conosciamo perché ci pare strano che ci ascolti qualcuno che non ci conosci, ma è bellissimo. Cioè, siamo felicissimi. Sì, comunque ero in Rage Against the Machine. Rispondo anche alla tua domanda. Sì. Adesso, cioè, sembriamo neanche Marione sta così in trasmissione, raga, ve lo dico. Cioè, oh, rispetto per Marione. Sì, sì, proprio. Sì, sì, tantissimo. No, allora stavamo parlando Marione e Guido Zappalini. Innanzitutto della dichiarazione di Napolitano. La dichiarazione di Napolitano. E botta a burro. Botta a burro. O fischia a botto. Allora, comunque il boom non lo sento dagli anni 60. Questa più carta sarà botta a burro. Diciamo che sarà un po' la politica del l'antipolitica nella politica, nel senso che cosa hanno fatto i vari partiti, non partiti, il vecchio sistema sconfitto parzialmente dai grillini, hanno girato la testa dall'altra parte e su tutti ha fatto scandalo, cioè ha fatto scandalo, ha fatto clamore come l'ha fatto per Napolitano, a cui hanno chiesto, ha visto il boom dei grillini, comunque in molti comuni, in un paio di comuni erano proprio già il sindaco. A Parma? In altri, no, non è già sindaco a Parma. È ballottaggio a Parma. Ballottaggio. A Comacchio è anche andato benissimo, comunque Parma è un grosso comune. Ah, il sindaco c'hanno nel paese dove c'è il Parlamento del leghista, il Parlamento padano. Pensa quindi che pensa figata clamorosa. E tutto questo, quindi, ovviamente, cioè, ovviamente è aumentato il consenso verso questa nuova forma, diciamo, di interpretare la politica, almeno nei comuni e nelle province. E Napolitano non ha visto il boom. Gli hanno fatto la domanda: ha visto il boom come reputa il boom dei grillini? Non ho visto nessun boom, il boom l'ho visto negli anni 60. Quindi proprio girarsi dall'altra parte e fare finta che non sia accaduto niente e che sia normale. E con tutto lo schifo che mi fanno i grillini, sinceramente, vedere la difficoltà nella faccia dei politici, dei professionisti, cioè, mi dà una soddisfazione. Sì, perché poi tra l'altro Napolitano è stato il meno furbo. Quasi quasi io grillo lo voto. Napolitano è stato sì. Proprio lui, se si candida a dittatore, io lo voto. Candidati a imperatore supremo. Solo per andare a Napolitano e fai lo sette boom adesso. Metti questo cazzo di boom, vecchio di merda, tra l'altro. Infame. Comunque, era stamattina Omnibus. Ma davvero? C'era, cioè, tu segui Omnibus, cioè, tu sei, ma non è vero niente. Piccola, no, stamattina mi sono guardi svegliato alle 6:30. E guardi Omnibus. Sì. Poi mi sono addormentato. Poi ti sei riaddormentato. Ok, sai, io sono tornato alle 6:30. A Omnibus ci stava Nutti, che è il candidato. Sì, però tu guarda, le stelle ma Nutti. Passaggio è stato facile. Nutti chi è? Nutti è il candidato. Nutti, quello che fa il sugo. No, quello è Mutti. Bortolo Nutti, allenatore del Palermo. Niente, ma potremmo continuare per ore. Dai, facci stronzeggiare. Sì, dai. Sì, sì, cioè, salutiamo Francesco, il nostro nuovo ascoltatore. Io lo saluto con molto calore. Sì, sì, Francesco Nutti. Francesco Nutti, grande Francesco Nutti. Ciao Ciccio. Vabbè, insomma, c'era fino al 15 Valle è un filmone. C'era Nutti, che era il candidato del Movimento 5 Stelle, ospite a Omnibus. Ha candidato che dove? Se... per il Regno a del cosa? Mondo. Non mi ricordo. Vedi che a Re del Mondo, who, when, what, when, will Tord. Non ho assolutamente idea. Comunque, vabbè, fatto sta che si è attaccato con Schifani. Lui, Nuti. Sì, in una serie di... Ma Nuti, hai cercato Nuti, non Nuti. Ah, ah no, perché... si chiama Nuti, imbecille. Si chiama Nuti. Neanche sai quello che dici. A Palermo, tra l'altro. A Palermo. Ah, ok. A Palermo ha rivinto Orlando, ragazzi. Cioè, grande. Grande. È il nuovo che avanza. Ormai, il compagno Orlando. Il nuovo che avanza. Comunque, un po' di ordine, no? Il nuovo che avanza. Nuti, non Nutti. Ok. Si è accapigliato con Schifani in una serie di voli pindarici sul nulla, fondamentalmente. Non farlo mai. E oggi lo farò, Grillo, lo farò un attimo. Anticipo agli ascoltatori, tra poco ammazzerò una zanzara, zanzara. Ci farà una botta. Guarda, stanotte mi ha veramente rotto il cazzo. Eccolo qua. Un omicidio in diretta. No, peraltro a quattro mani, in due non l'abbiamo presa. Cioè, svolazza ancora sagace. Va bene, Beppe, quindi Grillo, con Schifani. Grillo, ma anche una Felce che litigherebbe con Schifani, però non è che ci vedo proprio tutta questa. Sì, sì, sì, no, infatti. Però era per dire che comunque si quasi si ambivalevano. Lui e Grillo quasi si ambivalevano. No. Che cazzo vuol dire quasi si ambivalevano? No, non lo so, però. Ah, ok. Tu fantasia ci vuole. Tu. Quando mi ascolti, ci vuole fantasia. No, cioè, non sottolineare. Comunque. Insomma, Grillo ha ripreso Nuti perché è andato in televisione. Ah, dicendo sì, che le ospitate in io TV. Io ho fatto, sì, sì. L'ho deso, sono riuscito a dirlo. Sta andando in pensione. TV cacciano voti e. Che se cioè, fosse stato per la televisione avrebbero avuto a questo 0,1%. Grillo nei suoi voti. Sì, ma dico, cioè, nel senso il Movimento 5 Stelle, quindi si auto. Si rifiuta di andare in si televisione. Si autoregolamenta dicendo che non bisogna andare in televisione. Si autoregolamenta un cazzo. Grillo ha detto. È un diktat. Cioè, che lui passa okay, per nel senso, però, tra le varie regole che si sono dati, che Grillo ha dato, è cioè, di non andare in televisione. Esatto. Sì. Questa la puoi chiudere. Questa sai, questa non è una stronzata, però, da un certo punto di vista. No, no, ma per me c'è anche molto senso perché andare nel salotto sì, del PD o nel salotto del PDL non è a dire magari cose. Dare un diktat. A me Grillo è quel sul diktat, cazzo comunque, sì, se posso dirlo. No, perché credo che tra un po' si candiderà davvero imperatore del mondo, però va bene, questo è un pensiero. Perché in Italia si gambizzano sempre le persone sbagliate. Io direi però che stiamo dire... dicendo cazzate da troppo beh, tempo. No, possiamo anche continuare. Quindi metteremo Testify. No. No, di nuovo Rage. Buddy Holly. Bella questa, bellissima. I don't care what they say about us anyway. I don't care. siamo un'altra volta. Meraviglioso tappeto. Che cos'è? No, questa è una canzone che metteremo dopo. Comunque sono. No, infatti. Guardate che io ogni tanto se mi ci metto di buzzo buono. Come scusa? Vabbè, dai, nulla. Gianni Budget Buzzo anche. Che è morto, pare. No, però è bello perché quando parliamo insieme. È morto Budget Buzzo. Bella sta notizia. Sì, anche Haider. Pare sia morto anche Haider. Anche no, non è bello. Pizzotto ha sbagliato. Cosa, Haider? Haider. Vedi, lo vedi che diventiamo veramente pesanti. Haider poi in radio si è schiantato con la sua Spider. Sono quelle canzoncine che andavano il viaggio verso l'Austria. Ci sono, il bello perché in questo momento ho tipo 6-7 cose che direi e non le posso dire a nessuno perché sono tutte troppo grevi. Comunque dille, no, senti di libero. Tanto stasera ci abbiamo 3 ascoltatori. No, è un periodo troppo. E Francesco, salutiamo Francesco che è il nuovo ascoltatore. Cerchiamo di fare una rissa alla fine di questa trasmissione, chiunque, per favore. Una rissa alla fine di questa trasmissione. Ma dai, facciamo tipo sgarbi e capra. Tu che dici capra, fascista. No, capra, una cosa che invece era interessante sottolineare è vedere come in realtà, appunto, come diciamo prima, Napolitano su questo fenomeno antipolitico si è girato dall'altra parte. Altri invece hanno fatto hanno fatto una controanalisi dicendo: beh, dobbiamo analizzare questa ascesa di Grillo e dell'antipolitica. Continuando a chiamare Grillo antipolitica quando insomma c'è del più antipolitica. Su tutti c'è Casini, perché Casini ha detto una cosa, ragazzi, ha messo un tweet dove ha scritto il terzo polo. In che modo però? Ha scritto: l'esperienza del terzo polo è finita, non rappresentiamo più un cazzo. Non rappresentiamo più una novità. Cioè, ha detto una cosa. Non rappresentammo più la novità, vuol dire. Ha detto una cazzata, ragazzi, ma cioè, insomma, sempre di il terzo polo era fatto da gente come Casini, 20 anni tra Parlamento e politica varia. I vari Fini, i vari Rutelli, cioè, che tutta è partito gente della radicale. Sì, cioè, tutta gente sta più o meno da 30 anni in politica, 20-30 anni. E incredibilmente longeva, però. E prima rappresentavano qualcosa di nuovo, secondo loro. Cioè, nel senso, nella loro mente erano un po' come lo Luca Orlando, che è il secondo, terzo. Questo è il quinto. Io credo sia ormai il re. Ha detto che è il nuovo che avanza. Lui finalmente adesso porta. Però va detto che ogni volta si è cambiato con gente diversa. Quindi, sì, no, è anche vero che ha creato uno staff di super giovani, a quanto pare. Lui sarà il sindaco. Non so quanto defacciata sia questa cosa, ma neanche me ne frega un cazzo, se devo essere sincero, però pare che sia un. Beh, allora adesso sbattiamoci di tutti i comuni che non sono quelli nei quali abitiamo. Allora. Va bene, in tutto questo. Di droghi? Dillo al ministro. E che se, cioè, mi chiama il ministro e mi chiede se mi no, droga. Chiami no, tu devi chiamare il lui ministro. Lui ti chiama con la debito. Gli ci do. Allora ecco 48. Ma non è che era quello che diceva l'antipolitica. Infatti mi ha chiesto se mi drogavo quello al citofono di questo. Era lui, non era il citofono, era il telefono. Quindi è un telefono molto vecchio, ti sembra il citofono, eh? Era il ministro. Sì, è vero. Era il ministro. Sì, era un vecchio Olivetti. Dai, spieghiamo allora, questa notizia, se non avrei deficienti. Che questo non è un questionario online, quindi è un questionario cartaceo. Mandano casa per casa. Casa per casa vi manderanno questo questionario. No, però aspetta, non lo mandano casa per casa, evidentemente lo mandano solo a un target di persone, perché a molti è arrivato da febbraio, quindi non credo che arrivi a tutte le case. Credo che arrivi in un certo target. Sì, le poste probabilmente non. Cioè, mio nonno non credo che arriverà un questionario vai a rave party, perché mio nonno probabilmente chissà quanti ne erano bruciati, i vari postini che dovevano. Mio nonno organizza, Sì, insomma, la contemporaneità non è una cosa che si adatta alle poste italiane. Comunque, probabilmente a breve vi arriverà un questionario governativo sul consumo di alcol, fumo, sali da bagno, incensi, colle, solventi, energy drink, sedativi, barbiturici, crack, eroina e scarpini da calcio. Ma anche ayahuasca e cobret. Queste non le ho provate. Il cobret è molto in voga a Napoli. Vedi? Ah, ok, è la prima volta che l'avevo scritto. O cobret. O cobret, che è una cosa eroina cucinata. E crack. Sì, con un po' di pepe. E vogliono pure sapere dove ve li procurate. Insomma, praticamente devi denunciare i pusher. Probabilmente vogliono rendersi conto di quanti soldi stanno sperperando nel non legalizzare le droghe. Probabilmente cose comunque non faranno mai, a meno che tutta l'Italia non diventi la nuova Olanda. Che ma io poi voglio dire, ma che si aspettano questi? Io vado a dire qual è il mio consumo di droga. Vabbè, anonimo, quindi potresti pure farlo. Sì, sì, anonimo quanto te pare. Però per quale motivo dovrei fare? Chiedere è lecito. Per fare legalizzare, rispondere, rispondere è cortesia. Quindi loro ti dicono giustamente: senti, che fai? Me lo dici se ti droghi, dove ti droghi, con chi ti droghi, chi ti dà la droga, se la fai tu. Dove abita proprio? Dove però, abita siccome su. Il mittente è il Ministero dell'Interno. Sai com'è? Ci magari sta che sei un po' non un ti po', fidi, ecco. Un attimino di distanza la prenderei. Sì, però è, una, cioè, però è scritta a mano, cioè, inizia, bella sì. Cioè, inizia la lettera, per piatto un po' di confidenza. Bella, anzi, che se cosa non puoi dire, bella frate, sei in drago, cioè roba molto anni 90. E in chiusura è dai, forte. Comunque, sì, è da batte. Comunque, alcune delle domande che sono presenti in questionario sono, ad esempio, pratica regolarmente attività fisica, e vabbè. Cosa fa durante il suo tempo libero? Ha mai partecipato a un rave party? È la terza domanda. È normale, tempo libero uno va a un rave. Perché evidentemente l'ha fatto qualche uno. La Fornero secondo me no, grande... ma l'ha fatto qualche psicologo dei test. Perché è chiaro che ci tendono a spiazzarti. Come stai? Tutto? Ma ti droghi? Così ti spiazza e tu gli rispondi. Poi si va molto sul vago, la prende alla larga sì, Hai mai sentito parlare di queste sostanze? Sì, oppure parlare canne. Ti sei mai fatto uno 0,5 proprio arriva. Ha mai sentito parlare di sostanze psicoattive? Insomma, vabbè, La cocaina l'hai vista solo nei film? Questa è un'altra di quelle cose di cui avremo memoria. La domanda però è sarebbe interessante fare una cosa del genere. Prendere, cioè, se ti arriva questo questionario, tu lo compili, però lo mandi al carcere delle Vallette al compagno. Cioè, fai una cosa un po' strana. Cioè, se devi andare a prendere. Fai tutto un giro. Vabbè, alla fine, se l'obiettivo è intasare la casella postale, ci sta. E poi, soprattutto, però, è interessante sbagliato. Perché il nostro amico Gabor Svansus ha senza volere. Posto un problema molto importante, quello delle poste che non funzionano. E io volevo testimoniare una cosa che mi è successa l'altro giorno, che mi è arrivato il libro del 94 di Berlusconi. È arrivato un po' tardi. Io l'avrei votato, l'ho letto, mi è piaciuto. Ci stava, l'Italia è il paese che bello, bellissimo, la sua famiglia. Solo che me lo date quando già ha divorziato. Se ti è arrivato mo, vuol dire che tra un po' ti arriveranno la lettera. Ti arriverà il secondo libro. Oh, il cambio qualcosa che ti diceva. E infatti il cambio qualcosa, esatto. Io spero che mi arrivi domani. Il convertitore lire euro. Il convertitore era fighissimo. A me ancora manco mi è arrivato. Ma secondo voi c'aveva già i valori sballati? Sì. Cioè sì, nel sì. senso già tu mettevi 1000 lire no, e tirava 20 centesimi. Così random. Ma no, quello era fatto era collegato direttamente con all'inflazione. Sì, sì, all'inflazione. Sì, sì. Che, pensa quanto ha speso per quelle cose. E tutti con i suoi soldi. No, quanto hai speso. Ma lo sappiamo anche quanto abbiamo speso. E chissà quanto ha speso soprattutto Bossi Junior per farsi legalizzare questa cazzo di laurea. Non è vero niente che laurea. Ci ha provato. No, lui no, ma pare, lui dice sì, comunque. Lui dice probabilmente. Lui si dissocia dal suo diploma universitario. Questa cosa virgolettato su ansa.it e mi dissocio completamente da quel diploma universitario. Mo io non lo so. Non però... ho mai stato in Albania, non parlo l'albanese, non ho mai vantato titoli accademici, non sono mai stato a conoscenza di quel documento sì, datato certo. 2010, che prova appeso nel suo ufficio. Certo, certo che andare in giro a vantarsi di essere laureato con quella faccia, io non lo farei. Sono laureato. Comunque è una famiglia strana, succede una cosa strana, gli rifanno casa e non se ne accorgono. Lui è laureato e non l'ha capito. Non lo sa. Che comunque se ti non mi sorprende. Scusate. Però la cosa fantastica è che comunque la dichiarazione. Me lo lascio il telefono in diretta. Basta che non lo urli, magari nel momento in cui parlo. Magari non rispondi. Sì. Ecco, ma ho detto che ce l'ho due lauree. Sì, me l'ha detto, l'ha prese ieri. Sì. Avvocato c'è e della, dottore. C'è della radiofonia. Sì, no, sì, sì, sì, sì. Sì, e domani prendo anche quella da commercialista. Dai. Va bene. Laurea da commercialista. Cioè, una laurea pensa da commercialista. Io che idiota che ho fatto il liceo commercialista. E non l'hai pagato? No. Non esiste il liceo commercialista. Liceo commerciale. Liceo commerciale. Cioè, pensa quanto l'hai fatto con che interesse con tantissimo interesse. Sì, sì. Insomma, sì, lui no, tutti, sempre convinto. Zitti tutti insieme. Cioè, riusciremo un giorno a stare zitti tutti insieme? No, dobbiamo stare zitti tutti insieme. Cioè, l'obiettivo comunque è arrivare a fare una discussione di un'ora e mezza solo musica. Allora, un minuto di silenzio. Ci possiamo aggiungere? No, come un minuto basta, di silenzio. No. Possiamo aggiungere le altre dichiarazioni che sono state. Io ho usato per imparare. Vabbè niente, dai, è difficile leggerlo perché Bossi Junior sostiene di essere stato usato per impaurire il padre. Che voglio dire, che cazzo di paura fa? Fai schifo. Sì, ma fa paura lui nel senso. Sì, se si gira di colpo, sì. Che poi politicamente ormai non c'ha manco più tutto sto valore. Quindi. Vabbè, poi è la cosa che detta e ridetta che vorrà fare il contadino. La cosa positiva è che fa, insomma, dichiarato, io lo vorrei vedere se conteggi lui assieme ad Aziz Abdul. Ma il suo dire farò contadino e muratore, sarò imprenditore agricolo. Sarò imprenditore agricolo. Finalmente avranno la ristrutturazione e sapranno chi sarà, chi è responsabile. E quindi adesso posso fare una cosa da cabaret antico? No. Dai. Saranno le prime rape coltivate da una rapa. No, mi andava di fare queste cose tipo... anni 30. Porca la vacca. No, anni 30. No, bagaglino proprio. La vacca. Bagaglino cosa? È molto più bello. Cambia adesso il mic, grazie. Bravo. Parlando dei fascistelli che si stanno per ripulire a Colle Verde, si ripuliscono a Colle Verde. Allora, a Colle Verde sabato ci sarà a Canna. A Colle Verde sabato ci sarà una riunione addirittura europea, verranno da ogni angolo d'Europa, skin di tutto il mondo, unitevi, e ci saranno la più grande riunione di condominio di dei fasci d'Europa, sì. In un'occupazione che fu di Casa Pound, che si chiama Casa d'Italia Colle Verde, occupazione che, dalla quale adesso Casa Pound ha preso le distanze banalmente perché deve ripulirsi e quindi vuole candidarsi. Anzi, quando è che loro si candideranno? Alle comunali di Roma del 2013. Pensate. Sicuramente noi ci candideremo. Quindi niente, ci sarà questa riunione di nazi. In particolare saranno presenti SPQR Skin, che è un sono quelli network, del, skin, network internazionale. No, loro hanno SPQR preso le... Skin è il network laziale, che prende però che c'ha che da Lazio. Ah no, scusa. che ha dei forti legami con Blood and Honor, che è un'organizzazione che sta cattivissima, che sta all'interno dell'Hammer Skin, e sono entrambi illegali. Da cui Casa Pound prima ci si è avvicinata e poi si è allontanata. In realtà Casa Pound è nata da una scissione, quindi era in moderati. Quindi insomma, quando vi dicono che loro non sono fascisti, però sono del terzo millennio, però comunque, cioè, le origini sono quelle, insomma. Sono come quelli di Sinistra Critica che prendono le distanze dalla rifondazione, cioè, nascono da lì. Con quindi, tutti insomma, ovviamente i distinguo del caso. Non è che voglio paragonare la Sinistra Critica a Casa Pound, però no, insomma, ci mancherebbe altro. Molto meglio Casa Pound. Quindi insomma, almeno fanno sport. Almeno infatti sì, c'è una palestra popolare. Sarebbe da organizzarlo un contro raduno. Sì, esattamente lì proprio, a Colle Verde sarebbe da organizzare. Cioè, ma ci si sta pensando. Raga, giusto per accoglierli. Te lo dico, cioè, secondo me sta succedendo qualcosa nel mondo. Dai, senso? Veramente? Sì, no, nel senso che dopo... Pensa, lo dissero anche dopo la venuta di Gesù Cristo, 2012 anni fa. Mazza, ma dica, dove cosa sta succedendo, cioè, secondo lei? No, sto... Voi andate, perché io sto cercando di capire se è una notizia vera o se non è vera. Vabbè. Ciao Valeria! Ciao! Buonasera! Qua vai, viene gente. Trasmettiamo no, da un salotto, banalmente. No, perché succede questo? Quindi scusateci, questo. Ma insomma, scusateci un cazzo, però. Mi trasmetto da qua, no, perché da qua posso trasmettere. Dopo il tentato suicidio di Provenzano. Di Provenzano, pare che Pippo Calò sia stato male. Chi? Pippo Calò. Quello pure lui? Sì, pare che sia. Adesso sto cercando di verificare perché l'ho letto al volo. Posso... Cioè, sono telepaticamente. Sì, non so, no. Aspetta, ma comunque, tutti questi. Cioè, se questo fosse vero, fateci caso che uno ha tentato di suicidarsi, quest'altro è stato male, e tutti dopo Andreotti. Io non vorrei che ci... non vorrei dire niente, però pare e che. Può essere che Andreotti sarà l'unico a salvasse. Senza il può essere, Andreotti si salva sicuro. Posso ruttare io nel frattempo? Se puoi rutta, perché fa molto verità. Stimola parecchio la ma mia. Ma stai per ruttare del kebab, perché noi abbiamo una canzone qui pronta. Hai visto che Madonna che aggancio! Hai anche un po' di polenta per caso. Dai, No, perché qua siamo a Roma, quindi. Bravo. Creature verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi. Non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Che davanti si mischia la polenta con la razza. Inventa qualche balla, attirano la folla. Torito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, racconto i terroni pugliesi acchissati, finocchi di zingari negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Anche da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedele è un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo gesti. Se lo incontri per la strada, proprio non diresti che. Fa parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera. Tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra napoletani ce ne sono tantissimi, per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure Napoli ci chiama nel Zulu. Odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Anche le tabacche si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedeli è un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada, proprio non diresti che. A fermare solo con l'aiuto del dottore. A un posto fisso in villa, si sente lusingato. Ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Il vero risultato del miracolo padano. E adesso hai messo il microfono. E adesso, siccome noi siamo comunque per sempre non fare una guerra a Santoro, ma per aiutare anche il suo programma, vi mandiamo in diretta la grande intervista che ha fatto a Concetta Di Pietro, che è la sorella di Di Pietro. Senza motivo. Ma sei sicuro che è lei? Sì. E c'è un Tremonti, c'è un Tremonti interdetto. Sì, vagamente. No, è finita. È finita. Purtroppo si è persa la fantastica intervista a Concetta Di Pietro, che immagino avrà parlato di tutto. Avrà svelato tutto. Il mistero sul signoraggio. Non me tocca il signoraggio, ne può parlare solo una persona con cognizione di causa. E c'è Cofferati. E c'è Cofferati che è sempre più uguale a Guccini, ragazzi. È clamoroso questa cosa. Però purtroppo fa politica. Oh, anche io faccio politica. Ma voglio fare un Guccini dannata. Ci siamo persi in intervista, mio caro Svanzi Fonsis. Che sti cazzi, per un attimo. Comunque Tremonti ha sempre la stessa faccia da cazzo, incredibile. Sì, è neanche... la stessa moscia. Sì, credo sia la stessa. Mi si sente? Leo. Mi si sente? Vabbè, direi anche si sente, leghiamo questa cosa. Ciao. Sì, no, a parte questo, abbiamo passato... Pippo Calò, che ha fatto Pippo Calò? Pippo Calò si è sentito male, perché Pippo Calò... Miei, avete capito che ha fatto Pippo Calò? Pippo Calò ha avuto un problemaccio... con un meno ha avuto una complicazione cardiaca, no, libera cardiaca, una complicazione cardiaca e non è morto, vabbè, niente, comunque niente, abbiamo una complicazione cardiaca. Perché succede di stare male, però guarda caso domani doveva comparire in teleconferenza in un processo che lo vede imputato per mafia con Provenzano, quindi possiamo pensare che assolutamente non Provenzano non l'abbia fatto apposta per comunque è stato più originale di Calò, che si è fatto venire con un problema cardiaco. Vabbè, comunque non comparirà nessuno dei due in questo processo che li vede indagati per mafia, per un fatto di mafia d'Agrigento, e quindi benissimo. E fantastico. Vabbè, insomma, perculate da parte di questi simpatici individui. Sì, sto male, come faceva anche il buon... Sai che lo faceva anche spesso? Il buon Tanzi. E Tanzi ogni tanto diceva, no, c'ho la cagarella, non posso venire. Non devo toccare Madonna. Vabbè, non devi essere così aggressivo. Mannaggia alle fondamenta di San Pietro. Ci sono anche persone le fondamenta di San Pietro assolutamente no, perché c'è tanta arte. Là in mezzo, perché mi ritocca San Pietro il cupolone. Comunque... Ah, il culo del San Pietro, scusa. Vabbè, ok, è arte, ragazzi. Se voi siete due gritti stronzi, non è colpa mia. È chiesa. Fino a prova contraria, quindi magari esplode. Ragazzi, se esplodessero tutti la chiesa per tantissimi secoli ha fatto in modo che tanti artisti potessero dipingere. Parla bene della chiesa, altrimenti non è il clero, porco Dio. Non sto parlando bene della chiesa. La chiesa era l'unica. Io svuoterei il Vaticano, ma non abbatterei il Vaticano. Svuoterei il Vaticano e li manderei in esilio. Ma la cupola di San Pietro è una bellezza assoluta. I musei Vaticani sono della bellezza assoluta e stacce. Io ci farei dei parcheggi. Certo, adesso distruggiamo le opere di Michelangelo e di Raffaello perché si cazzi dalla chiesa. Ma quando mai? Sei un gretto. Sì. Ho capito, la settima Madonna, però hanno rotto pure il cazzo, capito? Cioè, nel senso, ma no, perché erano tutte diverse. Stata agli Uffizi a Firenze, ma perché tu non fantastico, però la Gabriele. 25esima Madonna. Però Gabriele, c'è un problema fondamentale, tu non capisci un cazzo. Assolutamente. C'è questo problema di base. Però purtroppo anch'io posso dire la mia. E questo è il problema dell'Italia. A noi dell'arte non ce ne fotte niente. Siete degli ignoranti, delle capre, capra, capra, capra, capra. Comunque, basta. Viva Concetta Di Pietro. Soprattutto. Che fa le Madonne anche lei, credo, di cera lacca. Sì. Le Madonne di cera. Tale Dalimonte, che non so chi sia, sostiene che c'è un rischio spappolamento del sistema partiti che porterebbe a ingovernabilità simile alla Grecia, magari. Magari, caro il mio Dalimonte. Vabbè, niente, è una cosa. Sì, no, però è fuori. Sì, no, perché adesso. Ma penso che stessi leggendo un messaggio, pensa. Non l'ho letto. Ciao, cioè, bello di casa. Dalimonte. Sì, il signor, che non so chi sia, peraltro. Credo sia lo stesso che ha citofonato a me. È ospite a Piazza Pulita in questo momento. Sì, perché stasera c'è, come ogni giovedì, ci siamo noi che siamo un po' quelli un po' più bravini. E poi c'è sta servizio pubblico a Piazza Pulita, che sono un po' i qualunquisti. Che è il contorno. Il Santoro in questo momento sostiene che D'Alema dice che i cittadini non capiscono la politica, ma forse è perché la politica non si fa capire, quindi perle di saggezza. Ma in tutto questo è proprio un difetto di comunicazione, mettono in culo in tutti i modi, no, fanno fisting in culo magari, no, è che no, non funziona così. Va bene, andiamo avanti con queste discussioni. Cioè, adesso stiamo sfiorando il qualunquista e inizieremo a dire se stava meglio. Stiamo sfiorandolo e accarezzandolo il qualunquista. Sì, sì. Oh, ciao. Si stava meglio quando si stava peggio. E quando c'era lui. Ah, quando c'era lui, i treni. I treni, quando c'era lui, i treni partivano in orario e soprattutto non facevano stronzate come quella che ha fatto recentemente Trenitalia. Ovvero, Trenitalia ha indetto un concorso. Voi direte, beh, che cosa può mettere in premio Trenitalia per fare in modo miglia. Anche per sì, tipo le mille miglia, anche per far utilizzare i propri servizi, magari può mettere in concorso, non so, un viaggio per due persone da qualche parte in treno. Mettere in concorso un viaggio forse non continua a non essere italiano, però vabbè. Può mettere in palio nel concorso, certo. Beh, adesso non è che di stare a puntualizzare ogni caso, non è che abbiamo Umberto Eco in ascolto, Cristo Santo. Magari. Non ce l'abbiamo. Io ormai dico magari a ogni affermazione. Magari ad ogni cosa che dico. Vaffanculo. Matteo Renzi magari. Ha scritto che vedendoli in TV capisco perché Grillo, che è un professionista, non vuole i grillini ai talk show. Matteo Renzi è un rottamatore che non rottama i coglioni del nonno, probabilmente. Comunque, detto questo, cosa ha fatto Trenitalia di simpatico? Perché tu segui Renzi su Twitter? Io non seguo Renzi. No, tu hai Renzi. Hashtag Piazza Pulita. No, tu stai seguendo Renzi. Attenzione, tu sei amico di Renzi. Io lo sto spiando, Renzi. Io mi sveglio ogni mattina, guardo Omnibus. Sai che Renzi mi fa venire voglia di votare Lega quasi a volte, perché veramente io è odioso. Lega per colpa di Renzi. Vabbè, stavamo dicendo, cosa hanno messo in premio quelli di Trenitalia invece che i loro servizi? Hanno messo in premio una Fiat 500, come a dire, siccome facciamo cagare, se vincete vi levate dai coglioni il problema di andare con i nostri mezzi di trasporto, cosa che fanno tutti i pendolari in Italia. Era una nota di colore per vedere come sono poco convinti dei loro servizi, i loro stessi. E dopo i capi di Trenitalia di colore, ci sentiamo. No, è bello perché poi quando parlo io proprio faccio radio da solo, poi parlate voi due e vi battibeccate. Grazie. Io stavo leggendo per i cazzi miei, anche perché stavo facendo gli stragazzacci miei. È buono, grazie, complimentoni. We'll be right back. Ariekice. Insomma, che volevamo dire? Che ne so, dimmi. Non c'avevamo più niente da dire. No, sai che volevi dire un paio di cose, mi pare, no? Hai detto, raga, c'è un sacco di cose a rullo. C'è un sacco di cose da dire, voglio proprio... Di nuovo parlavo. Il principe in bicicletta, che è una canzone che a noi non piace per niente. Ma possiamo usare come tappeto, di solito si usa questa... Cioè, ci sei pure i miei scarpe. Sì, sì, sì, sì, sì. No, ma tra l'altro io, coscienziosamente, ho deciso di passare questa canzone. Ne siamo contenti. Sì, sì, sì, sì, sì. Steve, la ceretta, Luca? No. Dovresti iniziare. Passiamo all'ultimo argomento serio, va, così poi ce ne andiamo. Gabriele. Sì, poi noi andiamo al forte. Ce ne andiamo. Ce ne andiamo al forte. Ce ne andiamo, ce ne a bercene una birra. Ce ne andiamo, ce ne a bercene una birra. Però poi si può aggiungere. Allora, qualche giorno fa c'è stata la seconda udienza per Nina e Mariana, che sono le due ragazze arrestate. Compagne, imparo a usare questo termine, Gabriele, compagne. Io questo termine lo quasi lo manderei un attimino in pensione. Sì, anch'io, però in questi casi è importante. Sì, sì, cioè, le due militanti, mi piace di più. Denota... Mi piace il militante. Ma denota unione il termine compagne. Ma anche militante. Identità. Cioè, no, militante di pure Iannone è militante. Le due giovani. Le due giovani militanti, compagne, notab. Sovversive. Sovversive, no, chiaramente no. Nina Marianna e Santa. Vabbè, io andrei a bere, visto che voi parlate di questa notizia. Ciao, ci vediamo dopo. Ci vediamo tra un po'. Dai, dai. Ma a bere cosa? Acqua. Dal cesso. Come i cani. Allora, c'è stata la seconda udienza per per Nina e Marianna, che sono le due compagne, ragazze militanti, a settembre scorso, durante perché? Una durante un'iniziativa su in Valsusa dove sono state tagliate le reti. E le forze del disordine, la Digos, no, c'era troppa neve per neve, non rimbalzavano i lacrimogeni non rimbalzavano bene, quindi è stata rimandata. Comunque, fatto sta che le forze dell'ordine, come fanno di solito, hanno preso gente a caso. Gli è capitato di prendere queste due ragazze, che sono una studentessa e una un'infermiera del 118, una volontaria del 118. E insomma, anche questa volta il processo ha visto le testimonianze farsa degli agenti della Digos, del carabiniere, nello specifico l'agente della Digos ha affermato... Guardia, infame. No, no, Digos nello specifico, perché era la vecchia polizia politica, ci tengo a sottolineare che è della Digos. L'ufficio politico si chiama adesso, comunque, non è che... Ok. E insomma, la gente della Digos ha affermato che la serata del 9 settembre, quella della manifestazione, è stata pubblicizzata dal movimento come una chiara dichiarazione di violenza, quando su questo stesso sito l'iniziativa era stata lanciata come passeggiata alle reti. Insomma, i notava hanno lanciato l'iniziativa come una passeggiata alle reti, e la Digos ovviamente ha recepito questo messaggio come una dichiarazione di violenza. Mentre ci sono state intervallate anche le testimonianze dei notav, quindi hanno spiegato la situazione in cui si sono verificati i fatti, quindi i feriti, l'enorme quantità di lacrimogeni lanciati, insomma la situazione è abbastanza particolare che c'è stata in Clarea, quindi razzi, lacrimogeni, pietre tirate dai poliziotti, le gas, i gas CS, quindi a quanto pare il giudice si è anche piuttosto stupito delle testimonianze opposte alle dichiarazioni delle forze dell'ordine. E niente, questo è un altro capitolo di questo, probabilmente ci metterà anni a chiudersi, ma nel frattempo qua sta facendo venire fuori. Con Land si è detto favorevole al TAB. E Hollande si è detto favorevole alla TAV, per chi non ci ha ascoltato. Per chi non ci ha ascoltato prima. Beh, comunque... Cosa che non faranno mai in Francia, perché non c'hanno una lira, stanno tagliando ovunque, figurati se iniziano a buttare soldi sulla TAV. Infatti sembrava quasi che Hollande dovesse un attimino spingersi la TAV per mandare un messaggio alla Merkel e a Monti, dicendo... Perché comunque, Monti sta facendo comunque una cosa molto furba. Non sono così sovversivo. Monti sta facendo una cosa molto molto furba. Sta prendendo il posto della Francia. Esatto, sì, si sta inserendo in questa alleanza e vuole diventare il... Perché l'alleanza Sarkozy-Merkel, come li chiamano? Mercosì. Mercosì, e come potrebbe essere Montosì? No? No. Merconti. Merconti è bello, Montel. Vincenzo Montel. Intanto ci potrebbe essere una possibile polemica tra Travaglio e se stesso e Tremonti. Ah, Travaglio e Tremonti, vi lasciamo Travaglio e Tremonti due minuti. Mettiamo. No, strano, neanche dei Tremonti. Chi adesso vince il senso di sostronzo di Travaglio? Diciamo che c'era un certo tipo. Un certo. Oh. Ramarro. Aspetta. No, però me le aspettavo più violente. Aspetta, aspetta. Dai tempo, perché in questo momento c'è vi descrivo, c'è Travaglio con il sorriso tipico di chi si sta tenendo proprio la polemica. Si sta masturbando con la terza mano. Sì, sì, sì, sì. Ha una mano sul pacco e sta pensando: adesso gli rispondo. Adesso gli faccio vedere la mia superiorità intellettuale. E comunque Tremonti è fuori sincro, clamorosamente. Quelli che ti dicono, no, un po' tutto sia fuori sincro, sì, sì, dato sì. Lo streaming. No, no, solo Tremonti, gli altri stanno... infatti questa cosa è stranissima. Anche lui che streama... Sì, sì, è lui che streama male, cioè tu quando ci parli è fuori sincro. Ma sta cagando? Roba noiosissima, no, perché... sul pareggio del bilancio sinceramente non... E a noi il pareggio non ci è mai piaciuto, con punto non ci famo niente, non si arriva in Europa. Gli inglesi possono festeggiare il pareggio, peraltro. Tra l'altro, come il secondo posto. Get free. E Hollande, mamma mia, olé, che amarezza. Ma ciao. Ciao, sì, perché stiamo chiudendo questa trasmissione, fatto. Perché oggi non... No, perché solitamente chiudiamo a mezzanotte, però oggi... Ma non è vero, siamo sempre chiuso alle 11:30. Ma non è vero. Poi arrivavamo fino alle mezzanotte e un quarto. Sì. Cioè, non è tu non ti sei mai... Abbiamo parlato un botto di roba stasera, eh? Cioè, i nostri ascoltatori ce la fanno più, qualcuno è svenuto da là. Sì, sì. C'è gente che ha proprio orecchie che sanguinavano. Gente si strappava i capelli e chi ci tirava mutande sul palco. Quale palco non si è capito? Tra l'altro aveva anche mutande sporche. Sgommatissime. Ricordiamo che Gabriele aspetta le groupies, convinto che la radiofonia... Me l'hanno promesse, su transizione di fase, quando mi hanno detto vuoi fare la trasmissione, mi hanno detto ci saranno le groupies. Ah, come quelli che quasi si fanno esplodere, gli promettono sette vergini. E tu se trasmetti... No, 30 vergini. Che poi che ce fai? Ah, mi faccio esplodere pure io 30 verdi. Pensa che no, ho capito, questa cosa non l'ho mai capita. Che poi avevo visto una vignetta che faceva un sacco ridere. 30 verdi che si trovava uno tutti nerd che giocavano con i D12. Questa l'ha capita veramente nessuno. Credo. Io e te forse, sì. Vabbè, ok. Ah, faglia ride. Fidatevi. Ridete sulla fiducia. Sì. Insomma, ci potete ascoltare giovedì prossimo alle 22. O ci potete ascoltare anche in settimana sul vostro caricando il podcast MP3. Esatto. Qualora vi andasse di Ma io so quanto so bravo. Qualora vi andasse di ascoltarci. Qual era, con l'accento o senza? No, con la K. Qual? Calora si scrive. Calora. Si legge. Come venivi di Vicky. Venivi di Vicky e qualora. Comunque ricordiamo se... il sito dove possono trovare il podcast. Sì, che è Trementi sopra il tuo culo. No, non è Trementi. Ah, Trementi sopra il clero, chiocciola blogspot. No, no. Assolutamente no. Chiocciola Yahoo. No, Hotmail. No. GeoCities. Te lo ricordi? No. Allora, Trementi sopra il clero, chiocciola non no, è vero, blog, chiocciola è neanche. Twitter, diga, questo, vabbè, di niente, non è Twitter, tra l'altro, quello è l'email. Il nostro sito. Allora, il nostro sito sopra blog, il clero, poi, perché sì. Punto no blogs. No blogs. Punto org. Non era. Bravissimo. Trementi sopra il clero, chiocciola no blogs, no, senza chiocciola. Allora, www.trementisopraclero.noblogs.org. Vabbè, comunque la mettiamo il podcast. Senti, facciamo, facciamo aggiungeteci su Facebook a Trementi, all'indirizzo di cercando Trementi sopra il clero oppure @Trementi, e noi metteremo il link diretto per lo streaming senza che vi sia sbattere. Credo ci sia il link anche su Transizione di Fase. No, sì, da forse ci sarà palinsesto, sì, palinsesto, forse ci trovate. Ringraziamo Transizione di Fase e ricordiamo che ci fa ancora domani, se volete prenderci a calci, ci volete prendere a calci, è vero, allo strike, allo strike. Perché che c'è la strike, scusa? Boh. Perché non è... perché tra l'altro non è stata pubblicizzata, no, per niente, quindi spam zero. Infatti quando tu vai su Facebook e ti trovi 8 notifiche, dici cazzo, mi hanno cercato. Che, finalmente quella che mi piace mi ha cercato, sicuramente, invece no. È tutto weird. Tutto o se no sono persone che hanno come avatar weird, perché quindi solo perché c'è questa bellissima, fantastica, stupenda, superba serata domani. E allo strike ricchi premi e codiglion soprattutto e tanta tanta tanta tanta tanta simpatia. Ci siamo anche noi tre, forse andiamo, io manco se cala giù. Ah, lui non però... viene, tu vieni? Facile. Ma chi ci va? Ah, vabbè, noi non lo so se vedrai. Forse ci andiamo, però forse se non ci siamo noi è anche meglio, probabilmente sì. Va bene, senti, allora chiudiamo con un pezzo che è un pezzo di storia del hip hop, del Rom Zoo, della scuola romana, Colle del Fomento sopra il colle. Arzo, punk romano, stile latino, flippo rime con sapore de carbonare e vino. Taverno, ottavo colle, questo è il nome del mio team. In tre semona squadra meglio dell'X-Men. Mi chiamo Danno, perché rompo tutto ciò che tocco e sprocco quando mi butto giù di brutto avanti fatti solo. Nazi alla larga, fasci fuori dalle palle. Non canto Forza Italia, non mi associo a certa gente. Ciappa lì, scuoti lì, se li bevevo tutti. Sopra colle del momento, niente piedi, piatti e se tanto vita, tanto vado incontro e bene. Io vengo dall'Etruria, sai, difendo ciò a cui credo e vedi. Non ho problemi, cammino con i miei piedi. Uso la forza che me, come un cavaliere Jedi. Perché non perdo tempo, che ho un momento in un momento. Estraggo i miei artigli da damante e chiedo dentro. Parli ma non dici niente, perciò non capisco. Il danno sopra il colle, resta fisso, il succo è questo. Sopra il colle del momento c'è la mente. E sopra il colle del momento c'è sta tanto. E sopra il colle del momento c'è la mente. E sopra il colle del momento c'è sta tanto. Non ci stanno, c'è la beffa e ci sta il danno. Problemi avranno ancora un'altra volta. Il colle beffa gli altri scuola. Original funk romano porta a chi l'ascolta. Chi l'ascolto non ci crede, dice tu non lo sai fare. Io flippo rime giù di frutte, non mi so fermare. Qualcuno sente la mia roba ma non può capire. Se non stai dentro a certe storie non le puoi assorbire. Non fa per te, non puoi farci niente. Sopra o sotto, taverno ottavo colle su e lo scrado giù di brutto. Sai dov'è che stanno sopra il colle? Non è poco. Arzo rime con la botta, mando il io faccio stile libero, non c'è coreografia. Il funk romano spacca e sai che roba mia. È come quando vedo il cielo masco d'occhi chiusi. È come quando inizi, lo usi, ma poi ne abusi. Il momento aumenta in dose massiccia. E adesso sono in ballo, ma è acceso tu la miccia. Lo scrauso becca il danno, lo scrauso già lo sa. Sul colle ci sta il danno, sul colle c'è la beffa. Sopra il colle del momento c'è la beffa. E sopra il colle del momento ci sta il danno. Del momento ci sta il danno. E sopra consentimi, sono il vino bianco alcolico, sono la beffa, il parto che ora canta perché ho imparato cosa fare da quelli prima di me, so con chi non si vende per vendere, dal colle i semi liriche per poi raccogliere il momento, le donne prendo stessa quantità, la beffa è qua quando c'è l'arco che dovevo da passare, penso sempre positivo, a volte un po' mi annoio perché sono quello che sono, ma quando è il momento buono sfido il buio, tempo ci provo, sono un po' Willy Coyote, se sbaglio ci riprovo perché io sono hardcore come i Growing Concern, lo sai ancora più hardcore di un film con Rocco e Selen, e quando marca male per lo spouse sai che accanno sul colle del fomento c'è la beffa e c'è Snapdan, sopra il colle del fomento c'è la beffa e sopra il colle del fomento ci sta il danno, e sopra il colle del fomento c'è la beffa e sopra il colle del fomento c'è la beffa, e sopra il colle del fomento c'è la beffa e sopra il colle del fomento c'è la beffa e sopra il colle del fomento c'è la beffa.